abbiamo i pastori Giuseppe e Stefania con noi. Venite, venite. Dai, facciamo un applauso come si deve. Con una standing ovation. Ci alziamo in piedi, li onoriamo, siamo grati a Dio per loro. Hai visto che Stefania darà solo un saluto? Passa a lei il microfono. Allora, tutti e due sono dei ministri spettacolari, meravigliosi, spettacolosi anche in Italia. Dio ha suscitato dei ministri come Giuseppe e Stefania per comunicare l'Evangelo efficacemente alle nuove generazioni e noi siamo grati a Dio per loro. Siamo anche onorati di avervi e quindi grazie per esserci. Entrambi potrebbero predicare benissimo, quindi abbiamo lasciato a loro la libertà. Oggi hanno tirato a tocco ed è uscito Giuseppe, quindi predicherà Giuseppe, però facciamo dare anche un saluto a Stefania. Grazie pastore, grazie a tutti. Sì, è vero, quando a volte i ragazzi ci chiedono ma come scegliete chi predicherà il sabato, loro pensano che preghiamo, invece noi ci guardiamo e diciamo oh, sabato predichi tu. Quindi grazie pastori, grazie per l'invito, è sempre bello essere qui con voi, ci sentiamo davvero a casa. E sapete, la cosa bella è che siamo quasi a Ferragosto e voi siete tutti qui, ed è bellissimo. A volte si pensa che in estate, anzi è così, ci si dedica alle proprie passioni, alle cose che ci piacciono, e il fatto che voi siate qui stamattina è perché avete una passione fortissima, che è quella di adorare Gesù e di stare con Lui. Quindi un mega applauso a voi. Noi vi vogliamo bene, vogliamo tantissimo bene al vostro pastore e a tutti i vostri pastori. Alla prossima, vi lascio al meglio. Grazie, grazie. Potete accomodarvi, accomodatevi pure. Buongiorno Chiesa, come state? Bene, cosa mangerete oggi? Volevo farvi gioire un attimo. Noi siamo contenti di essere qui. Ho detto, amore, dai, allora chi predica? Amore, io sono in vacanza, Predica tu. No, in realtà è una scusa per stare con i nostri amici, con il pastore Mirko, con Vito, Sara, con tutti voi, tantissimi altri, Marionella. E siamo contenti, siamo felici di essere qui. Spero che anche voi siate felici, ok? Perché è estate, agosto, perché fa caldissimo, perché si suda e perché Dio è buono. Amen. Noi a Milano d'estate la chiesa si svuota, come potete immaginare, la gente va via, come per esempio i milanesi che ci sono qui, sono venuti qui, ma Dio non va in vacanza, sì? Siete d'accordo con me? Quanti sono in vacanza? Lo vedevo dalle facce un po'. Cambio predica, parlo della depressione. per chi non va in vacanza. Amo profondamente il tema della vostra conferenza. Molto, perché io amo veramente la Chiesa. Io la amo, la Chiesa locale la amo. È qualcosa, è l'arma di Dio per questa generazione. Non ce ne sono altre di armi, ma è la Chiesa locale. E quando nella Bibbia c'è scritto Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno. E quando lo prego, Dio mi dice, calma, calma, sei sicuro? Sei sicuro? Guarda che quando arriverà il mio regno sarà incontenibile. Sei sicuro di volere questo nella tua vita? Sei sicuro di volere questo nella tua chiesa, nella tua famiglia, nella tua vita personale? Leggevo, amo molto i Vangeli, dopo i Vangeli ho iniziato a leggere Atti perché mi piace tantissimo, è uno dei pochi libri che riesce a mettere in crisi il mio essere cristiano. Ed è interessante perché, pensate, uno dei problemi della Chiesa degli Atti degli Apostoli era quello di convincere la gente che loro non erano degli dèi o non erano dei supereroi, un po' come noi. Noi dobbiamo convincere, no, guarda, davvero, calma, no, io non sono. Il potere di Dio operava talmente tanto attraverso di loro che hanno dovuto convincere la gente dicendo no, guarda che io non sono un Dio, io non ho questi superpoteri. Hanno avuto tempi di adorazione, Atti 4:31, così potenti che hanno scosso la terra. E probabilmente non avevano neanche tutta questa attrezzatura o l'attrezzatura che abbiamo noi a Milano. E come risultato di queste cose, sapete qual era la loro reputazione? Guardate questo verso che sicuramente conoscete molto bene, in Atti. No, il verso di prima degli Atti, sì, qual era? Atti 17. Quelli che hanno messo sotto sopra il mondo sono arrivati anche qua. Lo conoscete questo verso, sì? Quelli, cioè, vi esce dagli orecchie. Basta, quando leggete questo, basta. Non ce la faccio più, cambiamo verso. E tante volte noi dobbiamo convincere la gente che siamo cristiani. Sai, la domenica vanno ma no, non ci credo che va in chiesa, davvero? Ma la domenica? Sì, davvero? No, non ci credo. Noi, a noi è il contrario, dobbiamo convincere la gente che Dio è dentro di noi e noi abbiamo fatto un'esperienza con Lui. E la gente ha bisogno di vedere persone ripiene dello Spirito Santo, perché cosa significa venga il tuo regno se non essere ripieni dello Spirito Santo? Dove vuoi che Dio metta questo regno? Se non dentro di noi. E Dio ci dice, guarda che io il mio regno lo posso far venire, ma ho bisogno di qualcuno che lo porti in giro. Tu sei disposto a portare in giro il mio regno? Tu sei disposto ad essere davvero ripieno dello Spirito Santo? A volte succede che ho mia moglie, sento mia moglie che magari siamo in macchina e lì a fianco a me inizia a fare, io mi giro, amore, tutto bene? Amore, stai bene? Sì, perché? Non facevi dei versi strani. Quando sei ripieno dello Spirito Santo, ogni tuo respiro diventa una preghiera. Sei talmente ripieno che non ti rendi conto che tu stai parlando a Dio. Questo significa essere ripieni dello Spirito Santo. Immagina, vi ricordate negli Atti degli Apostoli, Stefano, che era lì pieno di Spirito Santo quando doveva essere lapidato? Vi ricordate questa storia? Chi la ricorda? Ok? Era lì per essere lapidato e ha iniziato a confrontare l'inferno. Era lì che confrontava l'inferno. E a volte noi ci preoccupiamo, diciamo non voglio... Io ho parlato a tanta gente, ma la mia testimonianza, quello che io ho detto, non ho portato nessun frutto. Quella persona mi ha preso anche in giro quando ho parlato di Gesù. Pensa a Stefano. È stato lapidato da Paolo. Eppure quella è stata la prima predica, e probabilmente quella predica in cui Paolo è stato scosso dallo Spirito Santo. Quindi non sottovalutare mai ogni volta che tu parli di Gesù a qualcuno, perché sarà lo Spirito Santo che scuoterà e farà nascere il suo regno dentro quelle persone. Siete d'accordo con me? A volte, voglio farvi un esempio. A volte pensiamo di essere ripieni dello Spirito Santo. E tante volte ho confuso il mio essere ripieno di Spirito Santo, mi sentivo pieno di Spirito Santo, e in realtà, secondo gli standard di Dio, ero un deserto, ok? Perché che cosa facciamo? Prendiamo la parola di Dio e la abbassiamo ai nostri standard e alla nostra esperienza. Allora, quando ci sentiamo ripieni, ci sentiamo pieni. Invece dovremmo prendere la nostra esperienza e alzarla agli standard della parola di Dio. Molte volte facciamo questo errore. Guardate, mi serve un bicchiere e una bottiglia d'acqua. Avvicinati, un applauso a Mario, il nostro... succede così, vai in una domenica speciale come questa e lo Spirito Santo inizia a riempirti, ok? E tu sei... pieno di Spirito Santo. Uno spirito buono questo. E allora fai così, Mario, prova a camminare con questo bicchiere velocemente. Ma se questo è il tuo veloce, siamo al sud. Oh, corri, devi andare in bagno, no? E noi siamo ripieni di Spirito Santo e facciamo tutto quello che facciamo in questo modo, ripieni di Spirito Santo. Ma poi chiediamo a Dio, no, riempici di più, e Lui ci riempie di più, e noi pensiamo di essere ancora pieni di Spirito Santo, e ce la crediamo, ok? Noi ce la cantiamo e noi ce la fischiamo, scriviamo anche su Instagram, mi sento pieno di Spirito Santo. ok, hashtag full of God. Ok, prova a correre in questo modo, e noi corriamo e noi ci sentiamo appesantiti, però ecco, la gente è lì che ci guarda e noi ce la cantiamo e noi ce la fischiamo, guardiamo la gente, hai visto il mio ultimo post? Ok, full of God, l'hai visto? E che cosa succede? La gente non vede in realtà che noi siamo ripieni di Spirito Santo, ma noi crediamo di essere pieni di Spirito Santo, perché è pieno questo bicchiere, non possiamo dire che non lo sia, ho bisogno di un'altra bottiglietta. Ma guardate che cosa succede quando si è veramente ripieni di Spirito Santo. No, non ti preoccupare. Non la... Ora fai così, Mario, corri. Voglio solo dirvi questo, quando sei pieno dello Spirito Santo non devi scriverlo su Instagram. Corri, corri. Corri, corri, corri. Perché lasci le tracce e la gente lo vede. Quando sei pieno dello Spirito Santo. Grazie Mario. Scusate, ma tanto 10 minuti si asciugherà perché farà caldo. Questo significa essere ripieni dello Spirito Santo. E voglio leggere con voi una storia in Atti 3 di Pietro e Giovanni. Ok, dopo questa meravigliosa preghiera, venga il tuo regno, loro hanno deciso, ma dai, facciamolo venire questo regno, vediamo che cosa succede. E leggiamo questa storia, guardate, leggiamola insieme, sicuramente la conoscete, ok? È una storia molto conosciuta. Un giorno Pietro e Giovanni salirono al Tempio, erano le 3 del pomeriggio, l'ora della preghiera, chi va al studio è l'ora della pennichella, ok? Pensate, ecco, qui puoi capire quanto tu sia ripieno dello Spirito Santo, se anziché dormire dopo pranzo al sud, preghi. Lì, secondo me, c'è la Pentecoste al sud, se invertiamo questo. Presso la porta del Tempio, che si chiamava la Porta Bella, stava un uomo storpio fin dalla nascita. Lo portavano là ogni giorno ed egli chiedeva l'elemosina a quelli che entravano nel Tempio. Appena vide Pietro e Giovanni, ripetete come Pietro e Giovanni? Pietro e Giovanni, parleremo di questi due tipi, che stavano per entrare, domandò loro l'elemosina. Ma Pietro insieme a Giovanni lo fissò negli occhi e disse, guardaci. Quell'uomo li guardò sperando di ricevere qualcosa da loro. Pietro invece gli disse, soldi non ne ho, ma quello che ho te lo do volentieri. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. Qua è interessante perché usa la parola Nazareno. Nel nome di quel Gesù che tutti hanno denigrato, nel nome di quel Gesù il Nazareno, quello in cui nessuno sta credendo. Alzati e cammina, brutto zoppo. No, non gli ho detto brutto zoppo. Poi lo prese per la mano destra e lo aiutò ad alzarsi. E in quell'istante le gambe e le caviglie del malato diventarono robuste e con un salto si mise in piedi e cominciò a camminare. Poi entrò nel tempio con gli apostoli e camminava, anzi saltava per la gioia e lodava Dio. Molti di noi conoscono sicuramente questa storia. Ed è interessante perché questo paralitico si faceva sempre mettere vicino al Tempio. Era storpio fin dalla nascita. Non so bene che tipo di problema avesse, ma era storpio, non poteva camminare. E si faceva mettere lì, vicino al Tempio. Perché pensava, da qui passerà tanta gente religiosa, da qui passerà tanta gente che dice di amare Dio, da qui passerà tanta gente che probabilmente ha iniziato a pregare venga il tuo regno. Però chiede a Pietro e Giovanni l'elemosina, niente di più che l'elemosina. Che strano, poche settimane prima avrebbero gridato, implorato a Gesù, guariscimi, guariscimi, tu puoi guarirmi, fino a poche settimane prima. Eppure questo paralitico, questo storpio, ha iniziato a chiedere a queste persone l'elemosina. E riflettevo su una cosa, che cos'è che la gente si aspetta da me? Probabilmente non succedono miracoli nella nostra vita, perché l'unica cosa che la gente si aspetta da noi sono 2 spiccioli e niente di più. Forse è più che il regno prorompente di Dio che esce da noi, la gente probabilmente si aspetterà una pacca sulla spalla, dai che ce la fai, dai che ce la fai. Ecco, la prima cosa che deve cambiare oggi e che deve essere rivoluzionata nella nostra vita, quando andrai a casa, quando andrai in spiaggia, quando andrai in giro, è l'aspettativa che gli altri hanno di te. cos'è che ti chiedono nella tua famiglia? Ti chiedono di pregare quando c'è una malattia, ti chiedono, ti prego, imponi le mani su questa cosa, prega per questa situazione, noi stiamo vivendo un momento particolare, tu che sei cristiano, prega per noi. Questo è il regno di Dio, questo significa portare il regno di Dio ovunque. Nella mia vita io ho avuto molte dipendenze, ok? Ho provato tanti tipi di droghe, tanti tipi di sostanze. E quando provavo una droga, ed era buona, quando ci andavo in botta, ed era buonissima, andavo dalla gente e dicevo, oh, devi provarla, fatti un tiro. Ti prego, fatti questa pista, ti prego, fatti qualcosa di... Ma fai certi viaggi impressionanti. Non so quanti hanno provato questo tipo di evangelizzazione, ok? Questo tipo di convincimento. Sapete perché io proponevo la droga? Perché funzionava. E molte volte mi sono ritrovato a vergognarmi di parlare di Gesù. E riflettevo con Dio e lui mi diceva, sai, tu proponevi la droga ovunque, in qualsiasi posto, avevi un coraggio incredibile, avevi proprio non ti preoccupavi di nulla perché la droga dentro di te ha funzionato. Molte volte ti vergogni di parlare di me perché probabilmente ancora mio figlio dentro di te non ha funzionato. Questa è la verità. Perché quando qualcosa funziona dentro di te diventi dipendente. Non abbiamo bisogno di motivazione, ti prego, motivami. L'unica motivazione è la croce. Oggi non abbiamo bisogno di motivazione, abbiamo bisogno di convinzioni. E tu devi essere convinto di quello che Gesù ha fatto nella tua vita e di quello che è il suo regno dentro di te. Sapete che solo il 7% dei cristiani condivide la propria fede. Statisticamente parlando, il 7% dei cristiani condivide la propria fede. È per questo che dobbiamo continuare a gridare, per questo chiamo questo titolo, venga il tuo regno che sia incontenibile. Guardate alcune statistiche, alcuni numeri reali che avvengono qui in Europa. I giovani in Repubblica Ceca sono i meno religiosi in Europa. Il 91% dei ragazzi tra i 16 e i 29 anni non seguono nessuna religione, il 91% ragazzi. L'80% dei giovani in Estonia non segue nessuna religione, il 75% dei giovani in Svezia, il 70% dei giovani in UK non segue nessuna religione, solo il 7% la chiesa anglicana, mentre il 6% si identifica con quella musulmana. L'80% dei giovani in Estonia, mi sa che in Francia il 64% dei ragazzi non segue nessuna fede. Solo in Polonia è diverso, perché il 17% dei ragazzi non segue nessuna religione. Meno della metà degli europei va a messa, in Belgio solo il 2%, in Italia il 50% dei ragazzi non segue nessuna religione, mentre l'altro 50% dice di essere cattolico, la maggior parte non praticante. Se volete un motivo perché il regno di Dio deve venire, è questo. Noi abbiamo bisogno di mettere sotto sopra l'Europa, noi abbiamo bisogno che questo regno di Dio abbia qualcosa dove mettersi e iniziare a camminare, partendo da questa città, partendo e continuando per l'Italia, continuando per l'Europa, è questo quello che Dio vuole. William Booth, predicatore metodista, quello che ha fondato l'esercito della salvezza, ha detto una frase bellissima che dice, non aspetto che Dio si muova, io sono l'agire di Dio. Io sono l'agire di Dio. Ma guardiamo velocemente questi due personaggi, Pietro e Giovanni, ok? Sono passati da là e loro hanno fatto qualcosa di diverso rispetto agli altri. Anche quando gli hanno chiesto le monetine, Pietro e Giovanni hanno fatto qualcosa di diverso. Ma chi era questo Pietro? Pietro era quello lì che ha rinnegato Gesù 3 volte. Pietro era quella persona che non aveva un bellissimo rapporto con i galli. Eppure si alzò pieno di Spirito Santo e iniziò a parlare davanti a 3.000 persone, pieno di Spirito Santo davanti a 3.000 persone. La Bibbia dice che, sempre negli Atti degli Apostoli, che la Chiesa continuava a aumentare, cresceva e Pietro camminava e con la sua ombra guariva la gente. Ma vi è mai successo? Con l'ombra. È incredibile. Gli ebrei dicevano che la tua unzione arriva fin dove arriva l'ombra, ok? Quindi se sei basso, Ok, se sei alto, la tua unzione, immagina, è incredibile, con l'ombra, è affascinante, tu vai a scuola, vai in spiaggia, tu passeggi in spiaggia e tu non serve neanche che preghi. E la gente inizia a guarire, torni a casa. Allora, amore, quante persone hai guarito oggi? Lascia stare, oggi era nuvoloso, guarda. Oggi nessuno, con l'ombra. Che cosa significa? È normale, non è l'ombra che guarisce, lo sappiamo tutti quanti, ma è l'ombra di colui che era dentro Pietro che guariva. Perché? Perché lui era esposto alla luce di Dio e quella luce proiettava guarigione sulle altre persone. E era inevitabile che succedeva questo, perché lui era pieno di Spirito Santo. Molte volte ci chiediamo: qual è la mia chiamata? Cos'è che devo fare? Qual è il prossimo passo che devo fare con Dio? Non pensare a tutte queste cose, continua a vivere ogni giorno pieno di Gesù, pieno dello Spirito Santo, e le cose accadranno da sole. Non devi progettare tu la tua chiamata, tu devi semplicemente vivere ogni giorno pieno di Gesù e queste cose accadranno da sole. Dobbiamo diventare dei contenitori ambulanti della sua presenza. Quando tu esci, tu devi portare in giro lo Spirito Santo e le cose cambiano attorno a noi, inevitabilmente. Pastore, allora, se le cose non stanno cambiando, che cosa significa? Fatti una domanda e datti una risposta. C'era Pietro e poi c'era Giovanni, ok? C'era Giovanni. Amo questi due personaggi perché secondo me si beccavano, ok? Tra di loro quando erano con Gesù. Ma allora Pietro, sempre quello là, sempre lì vicino, guarda questo qua. Secondo me non tirava una buona aria tra i due. Poi sono diventati talmente amici che andavano a pregare insieme, ok? Quindi abbiamo visto Pietro, quello che ha tradito Gesù. Ok, ha rinnegato Gesù 3 volte e poi davanti a 3.000 persone ha parlato e addirittura la sua ombra guariva perché è pieno di Spirito Santo. E poi c'era Giovanni. Giovanni era lo stesso, questo Giovanni di Atti 4, era lo stesso di Apocalisse 1:9, che dice, e diceva così: ero in esilio nell'isola di Patmos perché avevo annunziato la parola di Dio e la testimonianza portata da Gesù. Questo povero ragazzo era stato messo nell'isola di Patmos, ragazzi, era a 100 chilometri da Efeso. Sapete chi veniva portato in queste isole? Gli indesiderabili. Giovanni era un indesiderabile. Probabilmente tu lo sei per tua moglie, o lo sei per tuo marito, non lo so. Ok, prova ad andare a fare una vacanza qui, a Patmos. Magari scriverai la prossima Apocalisse, non so cosa Dio ti farà fare. Perché un umile discepolo di Gesù, Giovanni, il discepolo che Gesù amava, io lo immagino dolce, romantico, lui mi ama. Perché una persona del genere ha pronunciato una frase del genere? Perché Roma, che dominava il mondo, era così disperata che l'ha dovuto isolare dalla civiltà. E magari a molti di noi neanche ci calcolano. E invece qua questo Giovanni l'hanno dovuto portare via. Perché Roma non potevi metterlo dentro una prigione? Perché non potevi chiuderlo? Perché non potevi metterlo dentro un sotterraneo? Perché lo hai dovuto portare a chilometri e chilometri di distanza su un'isola deserta? Perché Roma considerava questo ragazzo una minaccia. Era una minaccia, perché quando arriva il regno di Dio nella tua vita, tu diventi una minaccia per il peccato e le cose cambiano nella tua famiglia, inevitabilmente. Immagino Giovanni lì su quell'isola, vede la nave dei soldati che iniziano ad andare via e lui è lì solo. E ora cosa faccio? La maggior parte di noi l'avrebbe considerato un fallito, sicuramente. No mega church, no libri, no CD, no wifi, la cosa peggiore. Okay? Niente di tutto questo. Non aveva un'agenda per ricordarsi i tantissimi impegni con i giovani, tutte le conferenze in cui doveva predicare. Non poteva più condividere le sue frasi bellissime sul suo profilo Instagram per incoraggiare tanta gente. E ha detto: cosa faccio ora? Non ho neanche un piano per conquistare le nazioni. Cosa faccio qui nell'isola di Patmos? Questo è Giovanni secondo il nostro metro di giudizio di oggi. Lui ha deciso: cosa faccio qua? Sono da solo. Apro la chiesa. Come Giovanni apro la chiesa? E quanta gente ci verrà in questa chiesa? E guardate come si chiama la chiesa di Giovanni. Lo potete leggere in Apocalisse 1:9. La chiesa si chiama Io, Giovanni. Oggi aprirò una nuova chiesa. Si chiamerà Io, Giovanni. Ok? Vostro fratello e vostro compagno, è vero, andate a leggere in Atti 1. Vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza di Gesù, fu rapito nello spirito nel giorno del Signore, e da lì tutto ebbe inizio. Perché Giovanni diceva: il regno di Dio non verrà limitato da me e da questo posto. E lui lì ha ricevuto l'Apocalisse. E il regno di Dio è incontenibile, va oltre qualsiasi tuo problema, va oltre qualsiasi tuo limite, va oltre qualsiasi tua necessità, qualsiasi tua incapacità. Non siamo noi, ok, che possiamo fermare quello che Dio vuole fare, se lo vogliamo fare, ma lo possiamo fermare se non lo vogliamo fare. Sapete che cosa pensa la nostra generazione? La nostra generazione pensa che Gesù sia venuto per rendere la nostra vita sicura e comoda. Sapete cosa vuole fare la nostra generazione? Vuole lavorare per Gesù a tempo pieno. Che significa? La Chiesa mi deve pagare. E che significa? Io non voglio lavorare. Ok? Ma io penso che non c'è nulla di male nel momento in cui tu fai un percorso. E se la Chiesa c'ha i soldi, piccolo particolare. Abbiamo fatto della sicurezza la nostra priorità. Ok? No, voglio vivere una vita cristiana sicura! Voglio essere sicuro! Ma la verità è che lui è venuto per renderci pericolosi! Lui è venuto per renderci pericoloso. Il regno di Dio è pericoloso! Quando tu entri nel tuo ufficio, la gente ha paura di te? Non so per quale motivo. Ok? Quando tu vai a scuola, ok, è arrivato, guarda, attento, non camminare vicino, che se sei malato guarisci, ok? Ma perché tutti mi scansano? Ok, Dio è venuto per renderci pericolosi, non sicuri. Questa generazione sta morendo non per il troppo peccato, ma per la mancanza di ragazzi cristiani veramente radicali. Perché il peccato era lo stesso prima ed è lo stesso ora. È questo che fa il regno di Dio quando viene. È questo che ha fatto con Pietro e Giovanni, facendoli diventare incontenibili, una minaccia, indesiderabili. Ok? Essere a tempo pieno per Dio significa stare 24 ore su 24 al suo servizio. Pagato, non pagato, sostenuto, non sostenuto. Non importa, ma la tua vita porta dei frutti che gli altri vedono. Siete d'accordo con me? Io ho l'orologio, ma non so quanto è passato. Ah, ok, interessante. Abbiamo abbassato gli standard di Dio ai nostri standard, perché ci sono delle cose che non riusciamo a fare. Molte volte mi è successo: no, questa cosa è difficile. Secondo me non è nella volontà di Dio. No, questa cosa, no, secondo me non è nella volontà di Dio. Abbiamo organizzato un summer camp con gli studenti di I Am Rev, e c'è stata l'ultima sera, che è stata probabilmente, anzi sicuramente, una delle serate più belle della mia vita con lo Spirito Santo. Ho iniziato a predicare, dopo 10 minuti, lo Spirito Santo, non mi è mai successo in questo modo, ho detto: ma smettila di predicare, non lo vedi che non ti sta sentendo nessuno? Vate retro, Satana. Vado: quale Satana? Sono io. Ascoltami, sempre Satana e Satana, smettila di predicare. E io ero lì, ok, avevo una predica bella, proprio stavo parlando di sovrannaturale. Fatto: ma smettila, fagli vedere che faccio miracoli. E ho detto: quali miracoli, Gesù? fatto un conto è predicare, un conto fatto smettila. Allora non so cosa mi è successo, io penso che lì sono stato proprio investito in una maniera incredibile, mi sono fermato, ho chiuso le parti, ho detto ragazzi volete vedere un miracolo? Io dentro di me stavo dicendo spegnete tutti i cellulari, togliete le dirette, tutto qua. Abbiamo detto allora chi ha questo problema, ho iniziato a dire chi ha un problema alla schiena, hanno alzato la mano dei ragazzi, ho fatto venire avanti una ragazza e aveva una gamba più corta dell'altra, l'ho fatta sedere, ho detto Dio il mio ministero può finire qui. Ok, va bene ragazzi, guardate, guardate come Dio guarisce. Premetto, non l'avevo mai fatto, quindi anche per me era vedere un miracolo. Ok, ero lì, ho fatto sedere questa ragazza, sembravo esperto, siediti bene, mettiti un po' più indietro, se no non funziona. Gli ho fatto allungare, non si giura, è vero, è così, ha allungato le gambe e una era più corta dell'altra. Ok ragazzi, ho detto vieni tu, prega tu. Così ho detto se non funziona prega. Dio mi ha perdonato poi dopo questo pensiero. Ho iniziato a pregare e all'improvviso, ok, la gamba è iniziato ad allungarsi. È tutta, non ho portato qui le foto perché non era in programma dirvi questo, ma c'erano i ragazzi così, che guardavano così, meravigliati quello che stava succedendo. Abbiamo preso gusto in questo e i ragazzi, oh, anch'io voglio un miracolo, anch'io voglio un miracolo. Si è avvicinato un ragazzo e ha fatto, quale gamba è più corta? No, non è la gamba, no, solo gambe stasera. Stasera funzionano solo le gambe, ok? No, nient'altro, questo funziona, ok? Prendere o lasciare, cioè, se vuoi te la allungo così domani ripreghiamo e te la riequilibro. Okay, si è avvicinato un ragazzo incredulo, praticamente aveva una formazione alla costola, qui, aveva un buco e io gli ho toccato il buco. Ho detto, Dio, la mia fede allunga le gambe. Tu vieni a pregare, metti la mano qui, ragazzi, si è creata la costola, l'ho toccata con le mie mani, si è creata la costola, poi si è avvicinato un altro ragazzo, io, quale cose si complicano, guarda cosa ho qui, aveva una gobba, così, sì, così, qua, ho detto, vabbè, tanto non lo vede dietro. Diciamo che è guarito. Ho chiamato Jane, una delle nostre ragazze. Prega Jane. È iniziato a pregare. Ragazzi, la gobba è iniziata a fare così. Ed è rimasta un poco. Fatto. È rimasta un po', però meglio di niente. Abbiamo ripregato. È scomparsa totalmente. Poi sono arrivati altri ragazzi che non riuscivano a piegare le ginocchia, non riuscivano, hanno iniziato a pregare, i ragazzini pregavano, pregavano nel nome di Gesù e hanno iniziato a saltare, a muovere le ginocchia. Cos'altro è successo? Ah, e poi è arrivato un ragazzo, credetemi, lì in quel momento ho detto Dio pietà di me, tutto ustionato, fatto, verso la fine, anch'io voglio un miracolo. Dimmi. Io non riesco, praticamente aveva la pelle tutta ustionata qui e non riusciva ad aprire le braccia. E qua era tutto ustionato, aveva, non so spiegarvelo, tutta la pelle. Il nervo gli tirava da qui e non riusciva ad aprire le braccia, era veramente messo male. Ho chiamato mia moglie, amore, prega tu. Io smistavo, ok? Io ero un po' tipo il centro smistamento di Amazon. Vai tu. Là ha pregato e iniziava, hanno pregato un sacco di volte, fatto nel nome di Gesù, allora va meglio. Questo ragazzo era senza emozioni, no, proprio di quelli che ti motiva ad avere fede, no? No, una volta, No, due volte. Hanno continuato a pregare. No, tre volte. Dopo l'ultima volta, non so quante volte hanno pregato, questo ragazzo scoppia a piangere in una maniera incredibile, perché all'improvviso, non lo so cosa sia successo, ha iniziato ad aprire le braccia, ha iniziato a piangere, ad abbracciare loro. Ma mi sono successe così tanti, un ragazzo che aveva problemi alle vene, anche un ragazzo che non poteva piegare il dito. Credetemi, io non ho mai visto, abbiamo avuto 31 guarigioni provate, testate lì in quel momento in due ore, 31 guarigioni in due ore. Poi siamo tornati il sabato successivo al Double Zero e ho detto: vai ragazzi, tutti quelli che hanno problemi, tutti quelli che sono malati, venite qui, prega tu. Ok, prega tu. Ho fatto venire lì al Double G quel sabato successivo una ciste che praticamente è scomparsa all'improvviso. E io, dove l'hai messa? Dove l'hai messa? Ok. Altre persone che avevano le gambe storte sono state raddrizzate. Questo sto parlando di quello che fa il regno di Dio quando viene, ok? E la domenica successiva la stessa cosa, abbiamo chiamato i piccolini proprio per far capire che lo Spirito Santo che si muove, e la gente guariva lì, problemi agli occhi, ovunque. Perché non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Non è... Pietro ha detto: quello che ho te lo do. Invece noi pensiamo: io non ho questo, quindi non te lo do. Non pensa al contrario, non pensare a quello che non hai, pensa a quello che hai, pensa a quel poco che hai, e Dio ti dimostrerà che con questo poco Lui può fare miracoli. Perché vi sto raccontando questo? Perché ha scioccato anche me. È stata la mia prima esperienza in questo modo. Ho visto altri miracoli, ma mai in questo modo io personalmente. Voglio essere trasparente con voi, è inutile mostrarmi. Oh, perché è importante che noi diminuiamo perché Lui possa aumentare. Vuoi vivere questo nella tua vita? Datti completamente allo Spirito Santo. Permetti allo Spirito Santo di andare oltre nella tua vita. Alcuni cristiani si comportano come se fossero a Luna Park anziché in guerra. Ma questa è una guerra. Portare il regno significa andare in guerra. No? Scusa, posso? E parlare di quello che Lui ha fatto nella nostra vita. Voglio concludere con una storia. La storia di John Patton. Io amo questa storia, è la storia di questo pastore di una chiesa scozzese, molti di voi neanche lo conoscono, è molto sconosciuto tra i cristiani. E Dio mise nel cuore a questa persona di andare a parlare alle popolazioni nel Pacifico, nelle Nuove Ebridi. E 20 anni prima due missionari sono andati in queste isole e sono stati mangiati, perché erano cannibali queste popolazioni. E naturalmente, sapete, quando Dio ti mette un sogno, tu vai in chiesa, e c'era il signor Dixon in questa storia che diceva: guarda che sarei mangiato dai cannibali. Grazie signor Dixon, avevo proprio bisogno di sentirmi dire questo. Sto andando in missione, grazie, mi incoraggia molto. E vi leggo la risposta di John Patton, che disse: signor Dixon, lei è ormai avanti negli anni e la sua prospettiva è quella di essere presto mangiato dai vermi. Vi confesso che pur di vivere e morire servendo e onorando Gesù, non farà la differenza per me se sarò mangiato dai cannibali o dai vermi. E nel gran giorno il mio corpo risorto sarà bello come il vostro, simile a Gesù. Questa è la generazione che Dio sta cercando, questa è la chiesa che Dio sta cercando, questa è la chiesa senza ruga, senza macchia, piena di Spirito Santo, che Dio sta innalzando in questo tempo per fare miracoli, per essere miracoli. E tu puoi viverlo, tu puoi viverlo. Pastore, ma come faccio? Nel momento in cui inizio a pregare ho dei dubbi. Non ti preoccupare, ne ho avuti anche tanti io, però poi è straordinario quello che succede. È tipo: Dio, sei tu che devi farlo, non io. Tu puoi vivere questi miracoli. Chiudi gli occhi con me. E voglio semplicemente dirti stamattina: desidera il suo regno nella tua vita. Lo vivrete in queste settimane. A novembre lo snocciolerete nella conferenza. Ma il regno di Dio è sovrannaturale. Il regno di Dio non è un nuovo programma di chiesa. Il regno di Dio è un programma che rompe le mura della chiesa per portare il sovrannaturale da dentro a fuori. Fuori c'è anche casa tua, eh? Fuori non c'è solo la gente che non conosce Gesù. Fuori c'è casa tua. A volte mi annoio del cristianesimo che vivo, dicendo: Dio, c'è di più. C'è di più. Per forza ci deve essere di più. Inevitabilmente ci deve essere di più, altrimenti è una bufala. Ci deve essere di più. Ogni giorno possiamo vivere questo di più. Voglio farti semplicemente questo invito. Se vuoi vivere questo di più, indipendentemente da tua moglie, tuo marito, la tua fidanzata, la tua famiglia, se vuoi dire: Dio, voglio essere un contenitore del tuo regno, voglio imparare a rischiare anche, alzati nel posto dove sei. Però guarda che Dio ti renderà pericoloso, eh? Quindi non farlo perché è un appello di quelli fighi, eh? E sono successe altre volte dove io pregavo e la gente non guariva. E quelle di solito non le raccontiamo, non è cool. Però è successo, perché quello che Dio ti chiederà è ubbidienza. Il regno di Dio è per gente ubbidiente, è per gente disposta a perdere la faccia. Cindy Jacobs diceva: dobbiamo essere disposti a perdere la nostra reputazione per guadagnare la sua, diceva. Ecco, questo avviene quando viviamo il regno di Dio nella nostra vita. Vi lascio ancora un minuto, perché bisogna pensarci, eh? Non è di quegli appelli dove tac ti alzi. Se sei in piedi, alza le tue mani con me. Facciamo questa preghiera insieme. Se vuoi, di Spirito Santo, riempimi di te. Ma prima di riempirmi, ti prego, svuotami dei miei pensieri, svuotami delle mie convinzioni, svuotami della mia incredulità. A volte faccio fatica, a volte non ce la faccio. Ti prego, voglio affidarti le mie debolezze, sapendo che tu manifesterai la tua forza, la tua potenza nella mia debolezza. Dio, ti do queste mani. Io voglio imporre queste mani agli ammalati e loro guariranno. Okay? E qualsiasi cosa succederà, io ti ubbidirò. Voglio essere un contenitore, un contenitore che porta in giro la tua presenza, che porta in giro il tuo regno. Nel lavoro, nella mia famiglia, con mia moglie, con mio marito, con i miei figli. Dio, cambiami. E voglio dichiarare sulla tua vita ora, nel nome di Gesù, che questa parola possa davvero cambiare radicalmente la tua vita, il tuo modo di vedere lo Spirito Santo, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Abbassa pure le tue mani. Chi ha qualche problema fisico, malattia, problema al proprio corpo, tenete le mani alzate. Ok. Ora, tutti quelli che non hanno la mano alzata, guardate chi ha la mano alzata e avvicinatevi a queste persone. Forza, forza, velocemente, velocemente. Pregheremo per loro. Chiameremo miracoli su questa chiesa. Non abbiamo molto tempo, ma lo Spirito Santo non ha bisogno di tanto tempo. Lo Spirito Santo opererà. Forza, forza, non serve fare la preghiera del secolo. Serve semplicemente permettere allo Spirito Santo di agire nella loro vita. Chiedete prima di tutto che problema hanno. Chiedeteglielo. Domandateglielo. Dobbiamo pregare in maniera specifica. Fatevi dire che problema hanno. Thank you. E ora iniziate a pregare in quella direzione, comandando alla malattia di andare via. Dio ci ha dato questa autorità, non è occhio, vabbè, dai, se vuoi lo fai. Dio ci ha dato questa autorità, ora, nel nome di Gesù. Ora, comanda la malattia, non dire Dio ti prego guariscila, tu hai autorità sulla malattia. Usa la tua autorità, forza. Credici, credici. Dopo che hanno pregato, prova a fare quel movimento che non riuscivi a fare, se puoi testarlo, ok? Prova. Prova, ok? Prova a farlo. Se lo puoi fare, ok? Se puoi testare in questo modo. C'è qualcuno che dopo ha provato e non sente più quel dolore, è stato guarito, può alzare la mano, può dirmelo. Qua c'è una signora, ok? Può avvicinarsi qua, qualcun altro che può provare, può testare in questo momento. Signora, cosa aveva? Il ginocchio non lo poteva muovere? Ora lo può muovere? Veramente? Se non è successo me lo può dire. Ah, ok, va bene, ok. Ora facciamo un'altra cosa che alcune volte non la facciamo. Ripreghiamo di nuovo. Vai, ripreghiamo di nuovo. Riprega, ancora. Continua a dichiarare guarigione, ok? Dai, a volte c'è un po' di incredulità. Ok, la prima, ok, dai, facciamola. Vai con la seconda, con più fede, con più fede. Dichiara, ora nel nome di Gesù, dichiara. Tu puoi essere guarito ora, oggi, in questo momento. Dio non guarisce solo ginocchia. Ora nel nome di Gesù dichiara fede, dichiara guarigione sulla tua vita. Questo è un nuovo tempo per voi, Chiesa. È un tempo di sovrannaturale. Ora nel nome di Gesù. Spirito Santo. tua mano se vuoi. Chiediamo a Dio questa fede. Alzala se vuoi, Dio, ti prego nel nome di Gesù. Forse c'è incredulità dentro di me, ma tu puoi aiutarmi. Tu puoi aiutarmi. Dammi quel granello di senape per vedere questo sovrannaturale nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Ed inizia a ringraziarlo. Iniziate a ringraziare Dio. Inizia a ringraziarlo. Dio, grazie. Grazie perché tu guarisci. Grazie perché tu sei buono. Grazie perché tu sei fedele. Forza, forza. Ringrazialo e sorridi. Sorridi alla sua presenza. Dì grazie, grazie, grazie. Grazie Spirito Santo. Ora una vita sovrannaturale. Inizia ad immaginare il regno di Dio che irrompe nella tua famiglia. Inizia ad immaginare un matrimonio che si sistema. Anche quello è un miracolo, eh? Un miracolo non significa soltanto guarigione fisica. Inizia a pensare a tutti questi miracoli nella tua vita. Ora immaginali. Perché ti sto dicendo questo? Perché Dio andrà al di là di quello che tu pensi, di quello che tu domandi. Quindi vai, inizia a chiedere, inizia a pensare queste cose nella tua vita. Sento che ci sono delle persone rassegnate. Ci sono delle situazioni che ti stanno facendo vivere in maniera rassegnata. Forse perché da tanto tempo, forse perché non sei mai riuscita a vincere o superare determinate cose. Mentre tutti hanno gli occhi chiusi, chiudete gli occhi per favore, per delicatezza. Puoi alzare la mano, voglio pregare per te, se sei tu questa persona. Ok? Ok. Io voglio pregarti ora in questo momento per ognuna di queste persone. Metto davanti a te il loro cuore nel nome di Gesù, che questa mattina la tua fede possa irrompere nei loro cuori. Non è qualcosa che può fare un uomo, non è qualcosa che può fare una predica, ma è qualcosa che solo tu puoi fare, Spirito Santo. Ora nel nome di Gesù io dichiaro che ogni tipo di rassegnazione, ogni tipo di idea sbagliata nella loro mente sia zittita ora nel nome di Gesù. Vi voglio dichiarare che il tuo sovrannaturale possa avere spazio nella loro vita e che quello che tu hai pensato per loro possa realizzarsi. Vi voglio mettere davanti a te ogni situazione fisica, ogni situazione familiare, dichiarando che i tuoi pensieri, che sono più alti dei nostri, possano iniziare a prendere vita dentro di loro, nel nome di Gesù. Consola i loro cuori. Metti fede, fede, fede. Inizia a ringraziare Dio, inizia a dire Dio grazie. Dio grazie perché tu sei fedele. Dio grazie perché tu sei buono. Dio grazie, Spirito Santo. Spirito Santo, grazie, grazie.